Certo, i miei desideri di Balbec avevano così ben maturato il corpo di Albertine, lo avevano caricato di sapori così freschi e così dolci, che mentre la carrozza ci portava al Bois e il vento, simile a un giardiniere scrupoloso, scrollava gli alberi, faceva cadere i frutti, spazzava le foglie morte, io mi dicevo che, se ci fosse stato qualche rischio di un errore da parte di Saint-Lieu o d'un mio fraintendimento della sua lettera, e il mio pranzo con Madame d'Estermaria non m'avesse condotto a niente, avrei dato appuntamento la sera stessa, molto tardi, ad Albertine, per dimenticare in un'ora di pura voluttà, stringendo fra le mie braccia il corpo del quale la mia curiosità aveva un tempo calcolato, soppesato tutte le attrattive di cui ora traboccava, le emozioni e forse le afflizioni di quell'inizio d'amore per Madame d'Estermaria. E, certo, se avessi potuto supporre che Madame d'Estermaria quella prima sera non m'avrebbe concesso alcun favore, mi sarei raffigurato la serata con lei in modo abbastanza deludente. Sapevo sin troppo bene, per esperienza, come i due stadi che si succedono dentro di noi agli albori dell'amore per una donna che abbiamo desiderata senza conoscerla, amando in lei più la vita particolare di cui si circonda che non la sua persona, ancora pressoché sconosciuta, come questi due stadi si riflettano bizzarramente nel campo degli eventi, vale a dire non più dentro di noi, ma nei nostri incontri con lei. Abbiamo, senza averle mai rivolto la parola, esitato, tentati come eravamo dalla poesia che ella incarnava ai nostri occhi. Sarà lei? Sarà un'altra? Ed ecco che i sogni le si fissano intorno. Fanno tutt'uno con la sua figura. Il primo incontro, che avviene subito dopo, dovrebbe riflettere quest'amore nascente. Non è affatto così. Come se fosse necessario che la vita materiale conoscesse a sua volta un primo stadio, pur essendone già innamorati, ci rivolgiamo a lei con le frasi più insignificanti. «Vi ho chiesto di venire a pranzo in quest'isola», perché ho pensato che l'ambiente vi sarebbe piaciuto. Del resto non ho niente di particolare da dirvi, ma ho paura che sia troppo umido e che abbiate freddo. Ma no, lo dite per cortesia. Vi permetto, signora, di lottare un altro quarto d'ora contro il freddo per non tormentarvi, ma fra un quarto d'ora vi porterò via a forza. Non voglio farvi prendere un raffreddore. E, senza averle detto niente, la riportiamo a casa, non ricordandoci niente di lei se non, forse, un certo modo di guardare, ma non pensando ad altro che a rivederla. Ora, la seconda volta, non ritrovando più nemmeno lo sguardo, unico ricordo, ma non pensando, ciò nonostante, anzi ancora di più, che a rivederla, il primo stadio è superato. Nell'intervallo non è accaduto nulla. E tuttavia, anziché parlare delle comodità del ristorante, diciamo, senza provocare il minimo stupore nella nuova persona che ci sembra brutta, ma la quale vorremmo che qualcuno parlasse di noi in ogni minuto della sua vita, avremo un bel da fare per rimuovere tutti gli ostacoli accumulati fra i nostri cuori. Pensate che ci riusciremo? Potremo aver ragione, secondo voi, dei nostri nemici? Sperare in un futuro felice? Ma queste conversazioni contrastate, dapprima insignificanti, poi piene di allusioni d'amore, non ci sarebbero state. Potevo fidarmi della lettera di Saint-Lieu. Madame d'Estermaria mi si sarebbe offerta sin dalla prima sera. Dunque non avrei avuto bisogno di convocare Albertina a casa mia, come ripiego, per la tarda serata. Era inutile. Robert non esagerava mai e la sua lettera era chiara. Albertine parlava poco, perché mi sentiva preoccupato. Proseguimmo per un breve tratto a piedi, sotto la grotta verdastra, quasi sottomarina, di una fitta fustaia, sulla cui cupola sentivamo frangersi il vento e schizzare la pioggia. Calpestavo a terra foglie morte che si conficcavano nel suolo come conchiglie e spingevo con la punta del bastone castagne spinose come ricci di mare. Sui rami, le ultime foglie convulse seguivano il vento solo per la lunghezza del picciolo, ma quando questo a volte si spezzava, cadevano a terra e lo raggiungevano di corsa. Pensavo con gioia come l'indomani, se durava quel tempo, l'isola sarebbe stata ancora più lontana, in ogni caso completamente deserta. Risalimmo in carrozza e poiché la burrasca si era calmata, Albertin propose di proseguire sino a Saint-Cloud. Come giù in basso le foglie morte, in alto erano le nubi che seguivano il vento e tramonti migratori, di cui una sorta di sezione conica praticata nel cielo lasciava scorgere la sovrapposizione rosa, azzurra e verde, erano pronti a partire per climi più propizi. Per vedere più da vicino una dea di marmo che si slanciava dal suo basamento e tutta sola in un grande bosco che sembrava esserle consacrato, lo colmava col terrore mitologico, per metà animale, per metà sacro, dei suoi balzi furiosi, Albertin salì sopra un dosso mentre io l'aspettavo lungo il sentiero. Anche lei, vista così dal basso, non più vasta e tondeggiante come 2 giorni prima sul mio letto, quando il suo collo mostrava la grana della pelle alla lente del mio sguardo ravvicinato, ma cesellata e sottile, sembrava una piccola statua sulla quale i minuti felici di Balbec avessero steso la loro patina. Quando mi ritrovai solo a casa mia, ricordando che nel pomeriggio avevo fatto una passeggiata con Albertin, che fra 2 giorni sarei stato a pranzo da Madame de Guermantes e che dovevo rispondere a una lettera di Gilbert, 3 donne che avevo amate, mi dissi che la nostra vita sociale è, come l'atelier di un artista, piena di abbozzi abbandonati, nei quali abbiamo creduto per un istante di poter fissare il nostro bisogno di un grande amore, ma non considerai che a volte, se l'abbozzo non è troppo remoto, ci può accadere di riprenderlo per farne un'opera affatto diversa e addirittura più importante, forse, di quella inizialmente progettata. Il giorno dopo il tempo era freddo e sereno, si sentiva l'inverno e, di fatto, la stagione era così avanzata che era un miracolo se avevamo potuto trovare nel buagia devastato qualche fastigio d'oro verde. Svegliandomi, vidi, come dalla finestra della caserma di Doncier, la nebbia opaca, uniforme e bianca, stendersi lietamente al sole, consistente e dolce come zucchero filato. Poi il sole si nascose e la nebbia, nel pomeriggio, si fece ancora più fitta. La sera scese di buon'ora. Mi preparai, ma era ancora troppo presto per uscire. Decisi di mandare una carrozza a Madame de Stermaria. Non osai prendervi posto, per non costringerla a fare la strada con me, ma consegnai al vetturino un biglietto per lei in cui le chiedevo se permetteva che andassi a prenderla. Mentre aspettavo, mi distesi sul letto, chiusi gli occhi un istante e poi li riapersi. Sopra le tende non c'era più che un'esigua orlatura di luce che andava scomparendo. Riconoscevo quell'ora inutile, vestibolo profondo del piacere di cui a Balbec avevo imparato a distinguere il vuoto oscuro e delizioso quando, solo come adesso nella mia camera, mentre tutti gli altri erano a pranzo, contemplavo senza tristezza l'agonia del giorno sopra le tende, sapendo che presto, dopo una notte breve come le notti polari, sarebbe risuscitato più sfolgorante nello sfaviglio di Rivebell. Saltai giù dal letto, annodai la cravatta nera, mi diedi un colpo di spazzola ai capelli, ultimi gesti di una messa a punto tardiva che eseguivo a Baalbek, pensando non a me, ma alle donne che avrei viste a Rivebelle e alle quali sorridevo in anticipo nello specchio obliquo della mia camera, e che erano rimasti, per questo, i segni precursori di un divertimento fatto insieme di musica e di luci. Simili a segnali magici, essi le evocavano, anzi, ne erano già la realizzazione. Grazie a loro avevo una nozione sicura della sua verità, un godimento completo del suo fascino frivolo e inebriante, esattamente come a Combré quando, nel mese di luglio, sentivo i colpi di martello dell'imballatore e, nella buia frescura della mia camera, gioivo del calore e del sole. Così non era più proprio Madame d'Estermaria, la donna che avrei voluto vedere. Costretto ora a passare la serata con lei, avrei preferito, poiché era l'ultima prima del ritorno dei miei genitori, averla del tutto libera per cercare di rivedere qualcuna delle donne di Rivebelle. Mi lavai un'ultima volta le mani e, passeggiando, sotto la spinta del piacere, attraverso l'appartamento, me le asciugai nell'oscurità della sala da pranzo. Mi parve che fosse aperta sull'anticamera illuminata, ma quello che avevo scambiato per la fessura di luce della porta, che era invece chiusa, era il riflesso bianco del mio asciugamano in uno specchio appoggiato al muro, in attesa di essere sistemato per il ritorno della mamma. Ripensai a tutti i miraggi scoperti in questo modo nel nostro appartamento. Miraggi non solo ottici, dato che i primi giorni avevo creduto che la vicina avesse un cane, a causa del guaito prolungato, quasi umano, prodotto da un certo tubo della cucina ogni volta che si apriva il rubinetto, e la porta del pianerottolo, chiudendosi da sola con estrema lentezza per le correnti d'aria della scala, eseguiva puntualmente le ombreggiature di frasi voluttuose e gementi che si sovrappongono al coro dei pellegrini verso la fine dell'ouverture del Tannhäuser. Ebbi del resto l'occasione, appena rimesso al suo posto l'asciugamano, di gustare una nuova audizione di quell'affascinante brano sinfonico, perché una scampanellata mi fece correre ad aprire la porta al vetturino, l'attore della risposta. Pensavo che questa sarebbe stata «La signora è giù in carrozza», oppure «La signora vi aspetta». Invece aveva in mano una lettera. Per qualche istante esitai a prendere conoscenza di ciò che Madame d'Estermaria aveva scritto e che, finché lei teneva in mano la penna, sarebbe ancora potuto cambiare, ma che adesso, staccato dalla sua persona, era un destino che percorreva ormai da solo la sua strada e sul quale lei stessa non sarebbe stata in grado di intervenire. Chiesi al vetturino di scendere e di aspettare un momento, sebbene brontolasse contro la nebbia. Uscito che fu, aprì subito la busta. Sul foglio, Viscontessa Alix d'Estermaria. La mia invitata aveva scritto «Sono desolata. Un contrattempo mi impedisce di pranzare con voi stasera all'isola del Bois. Ne sarei stata felicissima. Vi scriverò più a lungo da Stermaria con rincrescimento e amicizia». Rimasi immobile, stordito dal colpo ricevuto. Foglio e busta erano caduti ai miei piedi, come lo stoppaccio di un'arma da fuoco dopo lo sparo. Li raccolsi, analizzai la prima frase. «Dice di non poter pranzare con me all'isola del Bois. Se ne potrebbe dedurre che sarebbe disposta a pranzare con me altrove. Non commetterò l'indiscrezione di andare a cercarla, ma in fin dei conti si potrebbe anche interpretare così. E quell'isola del Bois, poiché il mio pensiero mi si era installato con 4 giorni d'anticipo in compagnia di Madame d'Estermaria, non riuscivo a fargliela lasciare. Senza volerlo, il mio desiderio tornava a seguire il pendio sul quale era incamminato da tante ore. E ancora, malgrado quel messaggio troppo recente per sopraffarlo, io mi preparavo istintivamente ad uscire, come uno studente che, respinto ad un esame, vorrebbe rispondere a un'altra domanda. Alla fine mi decisi a cercare Françoise per dirle di scendere a pagare il vetturino. Attraversai il corridoio e, non trovandola, passai per la sala da pranzo. Di colpo, i miei passi smisero di risuonare sull'impiantito di legno, come avevano fatto sino a quel momento, e si spensero in un silenzio che, prima ancora di riconoscerne la causa, mi diede un senso di soffocamento e di clausura. Erano i tappeti che, in vista del ritorno dei miei genitori, si era cominciato a fissare al pavimento. Così belli nelle mattine felici, quando in mezzo al loro disordine il sole ci aspetta come un amico venuto a prenderci per portarci a colazione in campagna e posa su di loro lo sguardo della foresta. Adesso, invece, essi costituivano il primo arredo della prigione invernale da cui, costretto come sarei stato a vivere, a consumare i miei pasti in famiglia, non avrei più avuto modo d'uscire liberamente.